Quante volte avrei voluto parlarti, salvarti, saziarti, ingolosirti, amarti, però per quante volte di testa parti, ci sono altri che arrivano, cammino mai dritto, io troppo eclettico, scrivono di me storie da buffone, forse, ma sono un comico, sono questo il mio copione, ho la faccia da giullare ma il cuore da eroe per salvarti, e in sole ore nel mio paradiso elettrico portarti, nel mio paradiso elettrico portarti. Quando tu ridi con me, schiaffi e sangue. E quando piangi con me, schiaffi e sangue. E quando parli con me, schiaffi e sangue. E quando ti strai con me, schiaffi e sangue. E quando ridi con me, schiaffi e sangue. E quando piangi con me, schiaffi e sangue. E quando parli con me, schiaffi e sangue. E quando tu ridi con me, schiaffi e sangue. Il caos della città ci inghiotte più delle veraci madri, mai sazie perché hanno serpi nello stomaco che gli rubano ricordi di noi, dei nostri giorni da eroi. E poi piove, piove sempre su chi si merita il sole. Il caos della città ci inghiotte più delle nostre veraci madri, mai sazie perché hanno serpi nello stomaco che gli rubano ricordi di noi, dei nostri giorni da eroi. E poi piove, piove sempre su chi si merita il sole. Piove sempre su chi si mette al sole. E quando tu ridi con me, schiaffi e sangue. E quando piangi con me, schiaffi e sangue. E quando parli con me, schiaffi e sangue. E quando ti strai con me, schiaffi e sangue. E quando tu ridi con me, schiaffi e sangue. E quando piangi con me, schiaffi e sangue. E quando parli con me, schiaffi e sangue. E quando ti strai con me, schiaffi e sangue. Ho la faccia da giullare, quindi, ma il cuore da eroe per salvarti in sole ore nel mio paradiso elettrico portarti. Vorrei amarti più del semplice vento, del baciarti, stringerti davvero e cullarti nel mio mistero, un mostro fatto di rime, immaginazione sublime. Vorrei solo con te correre fuori dalla routine e volare. E quando tu ridi con me, schiaffi e sangue. E quando piangi con me, schiaffi e sangue. E quando parli con me, schiaffi e sangue. E quando ti strai con me, schiaffi e sangue. E quando tu ridi con me, schiaffi e sangue. E quando parli con me, schiaffi e sangue. E quando piangi con me, schiaffi e sangue. E quando ti strai con me, schiaffi e sangue.